Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Oggi parliamo di nuovo di case e facciamo il punto sull'andamento del mercato immobiliare, che sembra rialzare timidamente la testa, o se non altro sembra interrompere il suo trend negativo che va avanti ormai da almeno 5 anni. È un po' come il PIL italiano che, come dice spesso il ministro Saccomanni, continua ancora a cadere ma quantomeno ha attenuato la sua caduta. Tornando al mercato immobiliare, i dati contenuti nella nota trimestrale dell'OMI, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, rilevano per il secondo trimestre di quest'anno un calo delle compravendite più contenuto rispetto ai trimestri precedenti. Allora oggi vogliamo fare il punto della situazione, raccogliendo come sempre le testimonianze degli ascoltatori e soprattutto i commenti degli esperti del settore, con i consigli per chi vuole comprare o vendere casa. Raccontateci, se volete, a che punto siete con la vostra trattativa, che aria tira nel mercato immobiliare della vostra città. Avete in mente di iniziare a guardarvi intorno per comprare o vendere e, come dire, avete rinunciato perché il mercato non vi dà ancora l'opportunità di fare questa scelta in maniera serena? 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, che raccoglieremo e commenteremo con Paola Dezza nel Sole 24 Ore. Paola, ciao, bentrovata. Buongiorno a tutti. Buongiorno e bentrovato anche a Valerio Angeletti, presidente della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari, la FIMA, e quindi sentiremo un po' direttamente sul campo che cosa ci raccontano gli intermediari. Mediari. Angeletti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E grazie anche a Gianni Guerrieri, direttore centrale dell'OMI, l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ho dato il numero verde per gli interventi degli ascoltatori, naturalmente le altre modalità che avete per intervenire in diretta le conoscete bene, scriveteci al 349-238-6666, scriveteci all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, scriveteci se volete su Facebook e anche su Twitter, e quindi abbiamo tutte le modalità possibili ed immaginabili per raccogliere le vostre considerazioni. Se volete scrivete anche a Paola Dezza, il Sole 24 Ore appunto è un indirizzo di posta molto facile da intercettare. Prima di tutto questo però rapidamente un'occhiata anche all'andamento dei mercati finanziari. Giornata davvero strana oggi in borsa in Europa. Gli indici sono partiti tutti male, sono arrivati a perdere 0,5 punto percentuale, poi sono risaliti, sono andati tutti in territorio positivo. Adesso vedo che il quadro sta di nuovo cambiando. Che succede in tutta questa incertezza? Non so se è il fermento nel settore delle telecomunicazioni o che altro. Comunque adesso di nuovo prevale, con l'unica eccezione di Piazza Affari, il segno meno. Parigi meno 0,30%, Francoforte meno 0,28%, Londra sulla parità, Milano più 0,15%. Milano oggi è sostenuta da Autogrill più 4%, A2A più 3,19%, Enel più 1,25%, Pirelli più 1,15% e Unicredit più 0,8%. Dopo l'audizione al Senato del presidente di Telecom Franco Bernabé, in cui ha fatto questa dichiarazione che ci ha lasciato davvero sbigottiti, abbiamo saputo del riassetto della compagnia dai comunicati stampa che ieri l'azienda ha deciso di appunto di diramare per rendere la nota al mercato, quindi un'ammissione pazzesca che commenteremo nel corso della giornata. In ogni caso, le notizie di Telecom oggi fanno perdere al titolo il 2%, praticamente perde più di quanto ha guadagnato ieri. La reazione del mercato sul riassetto di Telco al momento appare neutrale. Mediaset meno 1,55%, fra gli altri ribassi Intesa San Paolo meno 0,9%. Lo spread fra BTP e Bund a 238 punti base dopo le aste di questa mattina. Il Tesoro ha collocato 2 miliardi e mezzo di euro di CTZ a 2 anni al tasso dell'1,62%, in calo rispetto ad un mese fa quando era stato all'1,87%, collocati anche 750 milioni di euro di BTP indicizzati all'inflazione dell'Eurozona, tasso al 2,62%. Domani tocca i bot a 6 mesi, un'operazione da 8 miliardi e mezzo, venerdì invece la volta di BTP a 5-10 anni per un importo compreso fra i 5 e i 6 miliardi di euro. Lasciamo la borsa, andiamo ad un altro mercato molto caldo, quello immobiliare. Conte, Conte, Conte, che sei la mia passione, io parlo, parlo del mattone. No. Il mercato immobiliare sembra rialzare timidamente la testa, o perlomeno interrompere il suo trend negativo. I dati contenuti nella nota trimestrale dell'OMI, l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, rilevano per il secondo trimestre del 2013 un calo delle compravendite più contenuto rispetto agli ultimi anni. Certo, si può parlare solo in parte di un dato rassicurante, visto che il dato delle compravendite resta nettamente ancorato al segno meno, con una perdita del 7,7% e un volume intorno a quota 242.000. Il confronto con il trimestre precedente, però, parla chiaro. Tra gennaio e marzo la contrazione era stata del 13,8%. Il nord del paese mostra la perdita più contenuta, va un po' meno bene al centro e al sud. Tra le grandi città, Genova e Firenze mantengono perdite a doppia cifra percentuale. Roma registra un meno 6,9%, Torino e Milano rispettivamente un meno 4,7% e un meno 2%. Ci sono anche le eccezioni positive, come il più 5% di Bologna e il più 1,8% di Napoli. Il valore medio di un'abitazione risulta pari a circa 167.000 euro, in diminuzione rispetto allo stesso semestre dell'anno scorso in tutte le aree geografiche, ad eccezione delle isole. La caduta si attenua, insomma, ma si parla ancora di un mercato in crisi, lontano anni luce dal record di 850.000 compravendite di case registrate nel 2006. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, per raccontarci il vostro punto di vista sul tema del mercato immobiliare. Cosa succede nelle vostre città? Siete alla ricerca o state tentando di vendere da qualche mese e non ce la fate perché il prezzo che il mercato chiederebbe è ben diverso da quello che avete in testa? Sono temi, appunto, che affrontiamo da qualche anno. Paola Dezza, Il Sole 24 Ore, secondo te siamo ad un punto di svolta anche alla luce di questo monitoraggio diffuso ieri, di cui poi chiederemo conto a chi lo ha realizzato, oppure ancora troppo presto per dirlo? Direi che è ancora presto per dirlo, perché il punto di svolta è ancora lontano. Sicuramente siamo entrati in una situazione, in un trend che si avvia verso la stabilità sostanzialmente, cioè quello che abbiamo visto negli ultimi tre trimestri del 2012, quindi perdite sul fronte compravendite superiori al 25% per trimestre, che hanno sostanzialmente portato a dimezzarsi il mercato immobiliare rispetto a quelli che erano i livelli del 2004, adesso si stanno attenuando, quindi questa perdita di questo trimestre sicuramente va letta come una discesa più lenta del mercato. Tutto sommato il mercato è un mercato che si mantiene vivo per gli acquisti della prima casa e dell'acquisto per sostituzione, che negli ultimi mesi sono stati fortemente penalizzati per la contrazione del credito, per la scarsa fiducia, problemi di crisi economica. E però, per la rigidità dei prezzi, che già qualche ascoltatore appunto torna a segnalare. Esatto, però i prezzi nelle grandi città è vero tengono, nelle altre sono dimensionati parecchio, quindi nel momento in cui si fa una media bisogna dire che le quotazioni sostanzialmente stanno scendendo, anche se in maniera più lenta di quanto forse alcuni si aspettavano. Danilo ci scrive addirittura che i prezzi, secondo la sua visione, sono ancora troppo alti di almeno il 30%, forse magari in qualche città è ancora così, in qualche quartiere di qualche città, magari su Milano possiamo fare qualche ragionamento, su altri grandi appunto centri, però ovviamente 30% mi sembra un po' troppo, Paola. Oppure... Credo anch'io, perché il gap tra domanda e offerta era sempre stato di un 20% e adesso si è assottigliato, diciamo, negli ultimi 12-18 mesi. Cosa dice l'Agenzia delle Entrate, l'Osservatorio Mercato Immobiliare, il direttore centrale dell'OMI Gianni Guerrieri? Ancora buongiorno. Allora, vi hanno sorpreso i dati che avete poi presentato appunto ufficialmente ieri, nel momento in cui li avete scoperti, monitorando un po' l'andamento del mercato immobiliare italiano? E chiedo anche a lei qual è la sua sensazione, se questo punto di svolta potrebbe essere dietro l'angolo o dobbiamo ancora aspettare invece qualche mese o anno, speriamo di no. Buongiorno anche a lei. Niente, sì, un po' ci attendavamo, perché già il primo trimestre noi era stato negativo, ma in decelerazione rispetto ai tassi negativi del tutto il 2012. Pensate che noi il 2012 è stato un anno veramente cruciale per il settore immobiliare, perché noi abbiamo avuto tassi trimestrali tendenziali, quindi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che sono partiti dal meno 19,5 nel primo trimestre del 2012 e sono arrivati a meno 30,5 nel quarto trimestre del 2012. Quindi il fatto che il primo trimestre del 2013 abbiamo già meno 14,2, quindi una forte decelerazione pur nel mantenendo il segno negativo, e poi in questo secondo trimestre, sto parlando del settore del residenziale, che è quello come volumi più ampio, siamo passati sempre sul residenziale meno 9,3%, il 7,7% che ha detto lei all'inizio riguardava tutto. Certo, è la media, che poi andremo meno 9,3% a invece solo riguardante il settore residenziale. Questo qui è un andamento tipico di quando, diciamo, c'è un ciclo in cui si è toccato il fondo, probabilmente nel quarto trimestre 2012, e che adesso sta risalendo la china, e quindi è presumibile che verso il 2014 ci potrebbe essere segnali anche positivi. Teniamo conto che poi nei prossimi mesi, questo lo anticipo, diciamo, è possibile che ci possano essere degli effetti dovuti alle modifiche sulla tassazione del registro che possono portare taluni erogidi a essere spostati in avanti verso il 2014. Esattamente, perché è più vantaggiosa. Esatto, perché è un po' più vantaggiosa, quindi diciamo i erogidi anziché farsi nel dicembre 2013 si spostano verso gennaio. Allora, devo dire che abbiamo 2014. Fatto anche, dottor Guerrieri, una trasmissione su questo e abbiamo tentato appunto di capire, monitorando un po' anche quello che percepiscono i notai, per esempio, che chiaramente siglano, mettono la loro sigla finale sulle compravendite. Per la verità sostengono che un grande impatto rispetto a questo non ci sarà, perché comunque chi è che ha fissato magari un rogito fra novembre e dicembre lo ha fatto anche sulla base di un compromesso che adesso non può ribaltare, perché l'imposta di registro è più vantaggiosa da gennaio. Per cui, però, insomma, lei dice che in realtà forse qualche cosina potrebbe, chi ancora i compromessi non l'ha fatti, magari alla luce di questo li sigla con questa clausola. Certo, rogitiamo a gennaio. Abbiamo già visto quando fu posposta, abolita anticipatamente l'INVIM, che ci fu un effetto di questo genere, per cui si aspettò, diciamo, l'anno di passaggio dell'anno in modo da non pagare l'INVIM. Questo accadde E quindi, insomma, qualche cosina potrebbe spostare. Andiamo, allora, prima di sentire Valerio Angeletti, le volevo far sentire, Angeletti, qualche suo collega che ci sta già chiamando all'800240024 per capire un po' se gli agenti immobiliari, per esempio, percepiscono questa attenuazione della caduta e se per loro in questo momento portare a termine una compravendita è più semplice rispetto a qualche tempo fa. Mauro da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Volevo semplicemente portare la mia esperienza, la mia impressione sul mercato romano. Roma è ormai un mercato in cui la discesa è stata consolidata al minimo di un 30%, anche 35%, rispetto ai dati massimi del 2007-2008. In questo momento finalmente i proprietari degli immobili, le parti venditrici, consapevolmente iniziano a capire che il mercato è disceso, cosa che fino a qualche anno fa non avevano neanche la consapevolezza, per cui che richiedevano prezzi al mercato e chiedevano alle agenzie di vendere gli immobili ai stessi prezzi del 2007-2008. Oggi hanno iniziato a rendersi, come dire, conto di questa situazione e i compravendite sono ripresi perché i prezzi si sono abbassati. E certo, quindi se si abbassano i prezzi ottenere un mutuo è un po' più facile e di conseguenza ovviamente è un circolo virtuoso che si rimette in moto. Le nostre previsioni come operatori del mercato sono che la discesa non si fermerà almeno fino al 2015, esattamente. La discesa delle compravendite o dei prezzi, Mauro, o tutte e due contestualmente? Prezzi ovviamente, con una ripresa ovviamente inversamente proporzionale delle compravendite. Poi. Certo. Mauro, in bocca al lupo per il suo lavoro, naturalmente glielo auguriamo, anche se Mauro ci ha fatto una riflessione su Roma, che pure non possiamo definire una città rappresentativa di quello che poi succede in tutta Italia. Valerio Angeletti, presidente della FIMA, mediatori, agenti d'affari, appunto ha sentito quello che ci ha raccontato Mauro, la pensano un po' tutti così i vostri associati? O chiaramente abbiamo una situazione a macchia di leopardo? Scusi se ho anticipato la risposta, ma so che avete i tempi sempre stretti. Sicuramente c'è una sensazione di maggiore attenzione da parte degli acquirenti, che hanno ripreso a visitare gli immobili con maggior frequenza e hanno dimostrato un desiderio di portare a definizione trattative che magari per lungo tempo hanno dilazionato. Quindi la tendenza del mercato esposta dall'Agenzia delle Entrate è una tendenza sicuramente che si sta proseguendo in questo terzo trimestre, quindi speriamo anche noi che con il 2014 ci possa essere, si possa superare il segno negativo, cominciare a parlare di segno positivo, certo. Anche sulla ripresa sarà sicuramente molto lenta. Senta, quali sono ancora le problematiche che attanagliano di più questo blocco che ancora c'è in determinate località nella ripresa appunto delle trattative e delle compravendite? Sempre più problema di credito o problema di prezzi troppo rigidi di chi mette in vendita che non vuole abbassare? Allora, diciamo che esiste una serie estremamente numerosa di motivazioni. La mancanza del credito e il maggior costo del denaro oggi, perché è vero che i tassi europei, i tassi di riferimento sono particolarmente contenuti, ma gli spread utilizzati applicati dalle banche sono più alti di prima. E quindi chi si avvicina a un mutuo in Italia lo paga di più che nel resto d'Europa. Si è abbassata la disponibilità economica, il potere d'acquisto delle famiglie, per cui mentre prima ci vorranno 10 anni per estinguere un mutuo, oggi per la stessa cifra disponibile a pagare le rate occorre fare dei mutui più lunghi e quindi minore possibilità di indebitamento, una certa rigidezza sui prezzi c'è ancora, però sempre e soltanto sui prodotti di minor qualità, perché i prodotti buoni, gli alloggi migliori hanno già trovato punti di incontro con minima flessione del valore e una disponibilità dell'acquirente ad andare incontro anche alle richieste del venditore. Allora, quindi insomma un mercato ancora molto effervescente sicuramente, e tra l'altro vedo un ascoltatore che ci scrive: non capisco perché il calo del prezzo delle case dovrebbe essere una cattiva notizia. Non mi pare che abbiamo impostato la trasmissione secondo questa sensazione dell'ascoltatore Gianluca da Bergamo, mi scusi, anzi è una cattiva notizia per chi magari ha una casa acquistata dal 2004, 2005, 2006 ad un certo prezzo, adesso la vuole mettere sul mercato e col mercato quella richiesta la respinge, per cui ecco, da questo punto di vista è una cattiva notizia. Di sicuro per il mercato tutto nell'insieme, un riassestamento invece è una buona cosa. Ci fermiamo perché abbiamo la prima pausa pubblicitaria, poi sono pronti Elisabetta da Biella, Giuseppe da Latina, poi anticipo già Paolo Adezza che mi deve aprire il suo mappamondo e mi deve raccontare un po' in Italia come vanno le cose tra punte in cui magari le compravendite sono ancora totalmente rigide e invece dove il mercato ha ripreso a marciare in maniera interessante. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, oggi ritorniamo ad affrontare il trend del mercato immobiliare alla luce del rapporto pubblicato ieri dall'Agenzia delle Entrate, l'OMI, l'Osservatorio del Mercato Immobiliare, che ha decretato nel secondo trimestre del 2013 un calo complessivo delle compravendite, complessivo quindi è una media per tutti i settori del 7,7%, poi andremo ad analizzare nel dettaglio cosa è successo nel residenziale, nel settore del terziario, nel settore produttivo, nel settore commerciale, nel settore delle pertinenze, perché chiaramente questo 7,7% arriva da una media di tutti questi comparti. Detto questo, stavamo però anche cercando di capire un po' in tutta Italia che cosa succede. Abbiamo fatto prima un ragionamento su Roma che non è esattamente significativo, così come Milano, perché l'Italia appunto ha invece un quadro estremamente eterogeneo. Allora, per farmi raccontare da Paolo Adezza che cosa succede in Italia, città per città, almeno nei casi più macroscopici, ci metto insieme subito, Paola, una riflessione di un'ascoltatrice che ci chiama da Biella, che ha un appartamento in vendita a Rapallo. Elisabetta, però, insomma, quell'appartamento è lì da qualche anno e non ce la fa a venderlo. Come mai? Buongiorno. Sì. Complimenti per la trasmissione, molto interessante. Grazie. Sì, io vedo che ci sono spesso di questi, diciamo, relazioni, rapporti sull'andamento che mi interessano, perché in prima persona noi siamo interessati a vendere un appartamento dato che non lo abitiamo. Però nonostante le promesse di varie agenzie immobiliari che hanno anche stabilito il prezzo, perché lo abbiamo valutato insieme senza esagerare nella valutazione, è dal 2005 che noi non riusciamo a vendere questo appartamento, anche se ci sono delle visite, anche se in parte siamo riusciti quasi ad arrivare a concludere, poi la persona si è tirata indietro, però sta di fatto che noi dal 2005 siamo con un appartamento che via via perde valore, perché cerchiamo anche di così rivedere il prezzo per cercare di venderlo, e invece non c'è nulla da fare. E quindi insomma lei dice, inutile che mi state dicendo che c'è tutta questa vivacità che sta riprendendo, vivacità, quantomeno la situazione non è più così drammatica come un anno fa, due anni fa, e la sua casa sta lì in venduta. Elisabetta, quanto ancora è disposta a scendere di prezzo oppure non vuole scendere più? Guardi, noi siamo già andati via via scendendo per arrivare credo a un 30-40% rispetto al prezzo iniziale. Devo dire che è un appartamento a posto, è un appartamento da ristrutturare, bisogna farci qualcosa? No, è un appartamento di stampo medio-alto, con una metratura media, perché di solito si dice che gli appartamenti sui 100 metri quadri sono i primi a essere venduti, e noi siamo lì che aspettiamo, certo. Non ha un prezzo esagerato, capisce? In una località balneare dove di tutto, insomma, c'è una certo. certa richiesta. Ovvio. Elisabetta, grazie per la sua testimonianza. Paola, che ne pensi? Dell'appartamento della signora. Di tutto. Magari prima dell'appartamento lo bisogna vedere, prima di tutto la location, se è sull'Aurelia, chiaramente ha meno appeal di un appartamento panoramico. Perché tu collina. Conosci quella zona, perché io non saprei dare un giudizio invece. No, tutto sommato l'appartamento mi sembra un appartamento di fascia media, che è quella del mercato che ha sofferto di più, perché un appartamento al mare che costerà credo da tra i 400 e i 500 mila euro, oggi come oggi pochi possono acquistarlo, comunque preferiscono rimandare l'acquisto, perché ricordiamo il mercato delle seconde case proprio per l'IMU sta soffrendo molto perché è un acquisto che si può rimandare. L'acquisto della seconda casa è un acquisto del sogno, realizzare un sogno che comunque non è una necessità e immediata. Oggi chiaramente con l'IMU chiaramente viene valutato più e più volte, sì. No? Prima di farlo un investimento di questo tipo. Lasciamo ancora un attimo in sospeso le questioni appunto delle città, perché il tema invece della fiscalità lo sollevano gli ascoltatori e vorrei sentirli. Giuseppe da Latina, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica. Allora, io penso che uno dei problemi fondamentali su cui non si riesce mai a metter mano è gli oneri accessori che riguardano la compravendita degli immobili. Tra gli oneri accessori figura in modo predominante il costo notarile, dove non ci rendiamo conto. Allora, le faccio un punto di sintesi, mi consenta. Grazie. Allora, praticamente la stragrande maggioranza delle compravendite immobiliari, lasciamo perdere Roma e Milano, ma la stragrande maggioranza, dove i costi degli immobili sono sicuramente più alti, la stragrande maggioranza è nella provincia, interessano una fascia di costo tra i 150 e i 200 mila euro. Mm-hmm. Allora, noi ci vogliamo rendere conto una buona volta che su questa fascia incidere di 6, 7, 8 mila euro, 10 mila euro di costo notarile è un costo troppo sì, alto? Lei lo sa, Giuseppe, insomma, non è un costo, dica. Non è il notaio che noi paghiamo, no, noi paghiamo tre imposte mi in quella. Ecco. Assolutamente. Ecco, allora le dico che le imposte sono, tolte le imposte, dico di tariffario, sono dai 2.000, 2.500, 3.000 euro ad atto. Le dico anche che questo sistema, un pochettino, mi consente il termine un po' spinto, dottoressa, truffaldino, di voler fare per forza due atti, quando basterebbe una semplice decreto, una semplice circolare, e impone al cittadino che prende 1.300 euro e va a fare un povero mutuo o 2.000 euro di stipendio di far fare un solo atto anziché due atti, impone al cliente di pagare due tariffe, due parcelle notarili, a prescindere le imposte. Perché le imposte sono una cosa, e quello fa da sostituto di imposta il notaio, quindi è giusto che le percepisca e le vada a versare all'erario. Per ciò che riguarda i due atti a cui è obbligato un cittadino, uno stipendiato, a fare due atti e a essere colpito per 2-3 mila euro ad atto. Allora, No, io Giuseppe, guardi, capisco, ritengo che però magari chi si può permettere di acquistare un'abitazione che vale 200 mila euro, magari un po' questi conti li mette anche in conto. Capisco, ho capito perfettamente quello che lei dice, e so già che tra tre secondi mi chiama il Consiglio Nazionale del Notariato, perché avrà qualcosa da ridire sul fatto che non abbiamo interpellati. Il tema non è quanto costa un rogito e quanto costa appunto l'atto per sottoscrivere il mutuo, qua c'è tutto. Comunque complessivamente probabilmente anche gli oneri di questo tipo appunto vanno ad incidere. Oggi anche questi si calcolano, e prima anche in questo caso di comprare una casa si fa un conto anche appunto degli oneri obbligatori. Gianni Guerrieri dell'Agenzia delle Entrate, che ne pensa? Ma che in Italia il costo del trasferimento di un immobile è elevato, è vero, insomma ci sono anche altri studi Ox eccetera, e il costo del trasferimento appunto riguarda la tassazione, riguarda gli oneri accessori, come diceva il vostro ascoltatore, e su questo una prima possibile risposta viene data anche da questo sposta spostamento, riduzione dell'imposta di registro che comunque ci dovrebbe essere nel 2014. Non è che cambia la vita quella riduzione là, adesso no, se vogliamo dire. Però devo dire una cosa, se uno valuta, ho fatto un conto proprio su un'abitazione a Roma, se diciamo noi valutiamo in effetti appunto l'imposta di registro, quanto io pago, insomma avevo fatto un calcolo che l'IMU che io pago sull'abitazione seconda casa a Roma, in 7 anni, vale 7 anni di imposta di registro che pago al momento dell'acquisto, questo è il rapporto. Quindi è evidente che se limitiamo la tassazione alla questione, il problema è chiaro che c'è stato nel 2011 una forte impennata della tassazione immobiliare, ma il tema del mercato immobiliare non è quello della tassazione dell'IMU, ma quello della tassazione dell'imposta di trasferimento, IVA, registro, eccetera. Insomma, è su quello che potrebbe essere un aiuto al mercato immobiliare. Esatto. E per quanto riguarda, è evidente che lì il punto, diciamo, legato al fatto della difficoltà ad acquistare le abitazioni, è chiaramente c'è questo concorso di prezzi elevati, la cui discesa ovviamente può aiutare a trovare una domanda per gli appartamenti in offerta, c'è un problema di credito che è più complicato, diciamo, ma in realtà è tutta la condizione economica delle famiglie che rende complesso riuscire oggi a fare investimenti come quelli immobiliari, perché è un investimento comunque di medio periodo. Se si rinvia l'acquisto di un'automobile, figuriamoci se non si rinvia l'acquisto della casa. E lì certo. Il problema è legato al fatto di una maggiore incertezza, prima ancora dei livelli di reddito corrente, ma sull'incertezza sui livelli di reddito futuri. Certo, in un momento come questo, in cui anche tante grandi aziende ovviamente non ci mettono tanto a lasciarti a casa. Che può avere una certezza del suo futuro lavorativo e allora posso acquistare anche una casa al figlio immaginando che poi possa sostenere lui le spese del mutuo. Se questa certezza del futuro lavorativo del mio figlio non ce l'ho, è evidente che diventa più complesso. Guarda, volevo sentire un attimo Angeletti, poi vado anche a Paolo Adezzo. Angeletti, secondo lei se tutte le voci che noi dobbiamo appunto affrontare quando stipuliamo l'atto notarile appunto per completare la compravendita, se fossero delle voci un po' più contenute in termini appunto di costi, meno onerose, secondo lei aiuterebbe questo? È un problema fondamentale anche che voi sollevate? Allora, il problema non c'è un problema fondamentale, c'è un insieme di problemi. Sicuramente un abbassamento delle spese, e questo è un segnale di maggiore attenzione da parte del governo il prossimo anno, dovrà essere un aiuto, non sarà determinante nella decisione di acquisto dell'immobile. No, perché come ce l'ha posto l'ascoltatore invece sembrava proprio la cosa fondamentale, che fa addirittura rinunciare ad una... Purtroppo non è soltanto questo, ovviamente Guerrieri ha toccato un punto molto importante. Oggi le persone hanno timore di fare un passo un pochino più lungo, di avventurarsi in un indebitamento, di avviare un processo di acquisto, di ristrutturazione, di sistemazione, di trasloco in una nuova casa, perché chiaramente non hanno serenità in quello che può essere il loro lavoro e il loro futuro. Certo. L'azione più importante, al di là della una revisione di tutta la tassazione degli immobili, perché c'è l'IMU, c'è il registro, ci sono poi tutte quante le spese connesse alla detenzione di una casa. Angeletti, guardi, la sentiamo malissimo. Facciamo una cosa, andiamo in pubblicità adesso, ripristiniamo il collegamento telefonico con lei perché ci sembrano delle cose di sostanza molto importanti quelli che ci sta dicendo, per cui ci fermiamo, poi Paola torno da te, naturalmente un istante di pazienza. Eccoci qua, allora, mercato immobiliare, cosa fare per farlo riprendere? Abbiamo capito benissimo che intanto le banche dovrebbero riprendere a fare qualche mutuo, molte lo stanno facendo, qualcuna ancora un po' più con il contagocce, ma il tema è che c'è molta resistenza da parte anche di potenziali acquirenti, perché qua con una tassazione che non si capisce mai se sia stabile o meno. Paola Dezza, l'incertezza politica che pure fa il suo peso, naturalmente è un mercato, come dire, incerto, che non ne lascia prendere delle decisioni serene alle famiglie. No, io credo che la crisi economica e quindi la mancanza di fiducia in un miglioramento, in una ripresa, sia essenziale come rinvio all'acquisto, nel senso, in questo momento se un amico, un vicino di casa perde il lavoro, questo chiaramente non mi dà fiducia nel futuro, nell'idea, non mi voglia acquistare una casa, chiaramente l'incertezza è troppo alta. L'instabilità politica credo sia fondamentale in questo momento. Come il fisco quanto pesa secondo le tue rilevazioni appunto periodiche che fai anche per Il Sole? Poi dobbiamo ricordare anche la storia di copertina di domani. Ma di il Casa fisco Plus. Pesa, però sono d'accordo con quello che diceva Gianni Guerrieri, non è quello che fa rinviare l'acquisto. Sicuramente la nuova norma è importante. È chiaro che dal punto di vista dell'acquirente, sommare quelle che sono le tasse più la parcella, l'agente immobiliare se c'è, esatto, fa lievitare chiaramente i costi, però il rinvio dell'acquisto credo sia dovuto ad altre motivazioni. Andiamo a leggere anche qualche messaggio di qualche ascoltatore, perché state scrivendoci delle cose molto interessanti. Qualcuno commenta l'IMU, naturalmente in molti sostengono che per la verità, soprattutto per l'acquisto della prima casa, non è questo l'elemento determinante, probabilmente è per di più per la seconda, il tema della classe energetica, anche delle abitazioni, ancora il tema dei notai. No, c'era un ascoltatore, eccolo qua, questo di Modena, che ci voleva, molto preoccupato per la mia voce, sta andando meglio, Luca non si preoccupi, speriamo che vada ancora meglio nei prossimi giorni. Ci racconta che sua moglie ha ereditato un appartamento di 150 metri quadri commerciali in un palazzo signorile. 5 anni fa questo immobile valeva 300.000 euro, è in vendita da 4 anni, pochi mesi fa è arrivata un'offerta da 160.000 euro. Se questo vi sembra un calo del 20%, lo lascio dire a voi, Luca, evidentemente no. Non lo so, Angeletti, saranno stati troppi 300.000 euro 5 anni fa? Sono troppo pochi 160.000 euro, un'offerta impresentabile? Dovremmo vedere naturalmente questa casa, ma il mercato qua è proprio schizofrenico, direi. Angeletti. È veramente a macchie di leopardo e a volte proprio a casi singoli. La valutazione forse era alta e forse oggi c'è qualcuno che sta cercando di approfittarsene. L'immobile va comunque sempre valutato in quello che è il beneficio che può dare nel lungo periodo. È un investimento, ma è anche un bene di uso quotidiano e quindi come negli anni scorsi i prezzi schizzavano in alto in maniera eccessiva e in maniera schizofrenica, e qualcuno chiaramente ne ha avuto dei vantaggi, oggi stanno in certi casi vengono fatte delle controfferte eccessivamente ridotte, cercando di approfittare magari di situazioni di difficoltà. Esatto, infatti volevo arrivare a questo, perché magari Luca da Modena non ha bisogno di mettere in vendita questa casa, ci continua a strapagare le tasse finché resiste e lo fa, però certo, se fosse stato un po' con l'acqua alla gola perché aveva bisogno, magari mollava anche a 160.000 euro e chi l'aveva comprata aveva fatto l'affarone. A proposito di situazione macchia di leopardo, raccontaci qualcosa di qualche città, Paola Dezza. Allora, diciamo che c'è una forte polarizzazione sostanzialmente del mercato, perché quello che emerge dal rapporto è che le grandi città sono andate meglio dei comuni minori, quindi le grandi città sotto il profilo delle compravendite hanno tenuto, le compravendite sono scese nei capoluoghi del 6,3%, mentre nei piccoli centri oltre il 10% è stata la discesa. Poi ci sono delle situazioni singole, nel senso ci sono città come Genova, Firenze, Palermo che hanno subito delle perdite considerevoli, intorno al 10% e Genova addirittura il 15% nel settore compravendite, invece Milano per esempio che tiene molto bene perché ha perso solo il 2%. La provincia di Milano invece è andata male, le compravendite sono scese di oltre il 13%, quindi bisogna mettere proprio in evidenza la differenza tra le grandi città, dove l'acquisto tutto sommato si fa ancora, perché le grandi città richiamano anche persone da fuori che vengono a lavorare, quindi diciamo sono più dinamiche, e la provincia e i piccoli comuni minori, dove invece il mercato soffre sicuramente di più. Piero da Merate ci scrive: ma signora Rosciani, non sarà che il mercato, anche in base all'incremento demografico a zero e l'invecchiamento della popolazione, sia saturo? Perché no, magari in qualche località sta succedendo anche questo. Intuisce. Insomma, società che cambia e ne paghiamo appunto le conseguenze. Sento l'ultima riflessione, che è quella di Roberto della provincia di Parma. Buongiorno Roberto, un altro ascoltatore ci chiede: faccia l'elenco delle banche che fanno mutui. Ne abbiamo fatte tante di trasmissioni, magari adesso qualche nome lo possiamo anche fare, però non è molto corretto da parte nostra. Roberto, buongiorno, rapidissimo. Buongiorno, grazie di avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Io facevo una considerazione: se la casa uno la prende come prima casa per sé e per i figli, niente da dire. Ecco, come investimento, come seconda casa, io sono un appassionato, dagli anni 70 a venire ad ora non è un gran interesse, perché c'è tutto l'indotto, tu la devi affittare, l'inquilino ha dei problemi, la devi tenere a posto, certo. Ecco, e per me non è nessuno, io parlo per me, io l'ho presa, sono di Firenze, provincia di Parma, nel 96 a prezzo di mercato allora, ma se dovessi fare bene i conti purtroppo cos'è? È troppe imposte, troppo cose. Il problema è questo, ecco. Il problema non è neanche il prezzo di mercato, che poi uno si dimentica anche se l'ha pagata 10.000 euro in più o in meno, è poi il continuo, ecco. Roberto, grazie. Possiamo fare allora questo messaggio finale: pian piano le banche ricominceranno a fare mutui, i prezzi si andranno assestando sempre di più in Italia, adesso bisogna fare un intervento sulla fiscalità forse un po' più convincente. Paola, che dici? 10 secondi per concludere. Penso di sì. Guerrieri, lei è d'accordo? Agenzia delle Entrate, poi tutto ricade su di voi. Che dice? 3 secondi perché devo chiudere. Sì, sono d'accordo, evidentemente una tassazione, la revisione della tassazione immobiliare non può prescindere comunque da una revisione equa di tutto quello che sono gli imponibili. Deve essere un intervento congiunto. Angeletti, e magari un pochino anche ridurre le percentuali per quello che riguarda gli oneri di compravendita, diciamo, dell'agenzia immobiliare. Adesso gli amici che fanno questo lavoro mi scrivono e si arrabbiano, che dice? Sicuramente però avete fatto nelle trattative anche agente immobiliare ha fatto la sua parte per portare. Lo so, questo posso testimoniarlo perché ne conosco molti. Paola, hai 10 secondi di tempo per la copertina di domani. Sì, domani parliamo del mercato della montagna. Il mercato della seconda casa è un mercato che soffre, ma siamo andati a vedere le località dove conviene comprare, località minori, dove magari con 50-100.000 euro si può comprare una per casa da sistemare. Per chi non è spaventato dal fisco, da niente, esatto. La seconda casa la vuole in montagna, domani sul giornale, sul Sole 24 Ore, tutte le notizie. Grazie, a domani. Salva Danaio.